Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Londra con Enrico Franceschini. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ci si innamora di una città come ci si innamora di una donna. O come ci si innamora di un uomo, perché le città non hanno un sesso, il sesso dipende da chi le guarda. Uno può pensare che Milano è un maschio e Roma è una femmina, o il contrario. Io mi sono innamorato di tante città in vita mia, perché sono 30 anni che ho avuto la fortuna come giornalista di girare il mondo e vivere sempre all'estero, per lunghi periodi. Mi sono innamorato di New York, è facile, colpo di fulmine, grattacieli di Manhattan. Mi sono innamorato di Mosca, sono arrivato sulla Piazza Rossa una sera d'estate, ho visto le cupole di San Basilio colorate, le stelle rosse sulle cime del Cremlino, innamorato. Mi sono innamorato, colpo di fulmine, di Gerusalemme, perché ci vuole un cuore di pietra per non innamorarsi di Gerusalemme quando vedi le mura della città vecchia su lo sfondo di questo cielo incredibile e dietro sai che c'è il deserto della Giudea. Non male come inizio. Innamorarsi di una città è come innamorarsi di una donna o di un uomo. Sono con Enrico Franceschini, che prima di cominciare a parlarmi della donna della sua vita, ovvero della città della sua vita, ci tiene a precisare che lui è un chiacchierone, soprattutto quando si parla di cose che lo interessano molto, come in questo caso. Ma i chiacchieroni ci piacciono, penso, a maggior ragione, se hanno un accento così simpatico come il suo. È in Italia per la presentazione del suo libro Londra-Babilonia e con il suo fiume di parole mi sta portando proprio a Londra. Ma andiamo a conoscerla meglio, anche attraverso le cifre contenute nel suo libro. Con 7 milioni e mezzo di abitanti, Londra ha la popolazione di Roma, Parigi, Vienna e Bruxelles messe insieme e arriva a 20 milioni con gli sterminati sobborghi. È la più popolosa città d'Europa e la più grande per estensione geografica. Si espande su un'area che è il doppio di New York. È una delle città più verdi. Il 39% è fatto di parchi e giardini, a cominciare dai due grandi polmoni del centro, Hyde Park e Regent's Park. E poi 300 lingue e dialetti, 183 sinagoghe, 130 moschee, 12.200 ristoranti, 5.200 pub, 600 cinema, 400 teatri, 300 nightclub e discoteche, 150 casinò, 18.000 taxi, 275 stazioni del metro, che è il più vecchio del mondo e trasporta ogni giorno 3 milioni di persone, 649 linee di bus, ogni giorno 4 milioni di passeggeri, 5 aeroporti, 8 stazioni ferroviarie, 13 squadre professionistiche di calcio, tra cui 5 della Premier League, tutte le religioni della terra, una regina, due eredi al trono, una nuova principessa. Londra, Babilonia. Di Londra, dove vivo da quasi 8 anni, non mi sono innamorato con un colpo di fulmine, perché è più difficile. Londra non ha un'immagine sola, fissa, chiara, di cui innamorarsi. Ci sono tante cose, c'è il Tamigi, c'è il Big Ben, ci sono le casette, i musei, i parchi, gli autobus a due piani rossi, i teatri dell'West End, ma non c'è una cosa, una caratteristica chiara così come c'è per altre città. E poi perché è più una città che io dico, di cui diventa come una donna di cui tu dici quando la conosci: questa è proprio un'amica perfetta. Ci parlo bene, è interessante, è divertente, è spiritosa, è sempre piena di sorprese, mi capisce, è fatta per me da tanti punti di vista, però le manca quel certo non so che mi fa innamorare di lei. E quindi eravamo così tranquilli, finché un giorno, seduti in un caffè, dopo 2 o 3 anni che già stavo a Londra, seduto in un caffè con Londra davanti a me, l'ho guardata negli occhi e mi sono detto: questa è la donna della mia vita, è lei, è veramente lei, non è un'amica. E l'ho trovata di colpo anche seducente, affascinante, sexy, bella, la persona, la donna perfetta per me. Enrico Franceschini mi sta accompagnando a Londra. la città di cui non si è innamorato con un colpo di fulmine, ma proprio per questo forse è la città che è diventata la città della sua vita. Io ho vissuto tanto tempo a New York, è una città fantastica, adoro, però New York di fianco c'ha il New Jersey. Beh, invece Londra c'ha di fianco Parigi a 2 ore di treno e poi New York è lontana da, per esempio, dall'Italia, quindi Londra ha il vantaggio che ti senti anche vicino a casa. Ha tutte le cose che hanno le grandi città, i musei straordinari, è la città più verde d'Europa, è una città piena di gente creativa, interessante, piena di energia come New York, ma un po' più rilassati. Questo paragone continuo tra New York e Londra è interessante. Anche il libro è pieno di questi rimandi. Per uno come Enrico, che in qualità di corrispondente dall'estero per un quotidiano queste città le ha vissute da dentro, credo sia addirittura necessario cogliere nel confronto la vera sostanza del luogo, della sua gente, delle sue abitudini. A New York io avevo sempre l'impressione che quando uscivo di casa la mattina esci in strada ti devi mettere una corazza, perché intanto vieni raccolto dalla corrente che passa sulle strade e poi non sai dove ti porterà e devi cominciare a correre vertiginosamente forte, e poi una battaglia costante a New York. Invece Londra no, è un po' più, come si dice in inglese, laid back, una parola un pochino più rilassata, un pochino più europea per l'appunto, dove sì, ci sono, possono esserci ritmi frenetici, ma anche lenti, anche la slow life, non solo la fast lane, la corsia del sorpasso. E questa è proprio in questo libro che ho scritto, appunto, in Londra Babilonia, c'è una frasetta, dico, a Londra c'è tutto, eppure non sembra mai troppo, ed è proprio così, in questo senso che Londra c'è. Mi viene in mente una frase del suo libro sul fatto di sentirsi un po' meno estranei in una città come Londra rispetto a come ci si sente se si va in America. Perché il nuovo arrivato qui prova la piacevole sensazione di essere a casa senza veramente esserci, con tutto il vantaggio di vivere all'estero senza i morsi della nostalgia. Ma Londra non è una sola. Ci sono tante Londra, come prosegue Franceschini. È una città conservatrice, perché c'è tutto il passato, l'impero britannico, la storia, ma è anche una città d'avanguardia, dove ci sono tutte le nuove mode, dove è stato inventato un sacco di nuove cose, dove ci sono nuovi trend. È una città di casette, quindi una città così diversa dalle nostre, però anche una città di grattacieli. Se tu ti metti sul South Bank e guardi la nuova City, i nuovi grattacieli che stanno spuntando come funghi, incluso uno, il che sarà il più alto d'Europa disegnato dal nostro Renzo Piano, ha lo skyline di Manhattan. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Londra con Enrico Franceschini. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono partita con Enrico Franceschini alla volta di Londra, la città che si è trasformata col tempo nella donna della sua vita. Perché innamorarsi di una città è come innamorarsi di una donna, per il mio accompagnatore. Benjamin Disraeli, un primo ministro britannico, ha detto una frase che Franceschini non manca di scrivere nel suo libro e di ricordarmi anche a voce. Chi è stanco di Londra è stanco della vita. Nel libro racconto, è una guida, è una passeggiata per strade di Londra, sono delle storie sulla Londra di oggi, in parte personali, in parte oggettive. Racconto per esempio tutte queste tribù multietniche che ci sono a Londra, che è diverso dal melting pot americano. In America c'è il melting pot, pot pentola, melting che si scioglie. Le razze, anche se è un'espressione brutta, razza dire, mi viene in mente appunto quando Albert Einstein arrivò negli Stati Uniti e chiesero di Ellis Island di scrivere di che razza era, caucasica, nera, qui c'è il modulo razza, lui scrisse razza umana, scrisse Albert Einstein. Ma comunque tutte le razze nel pentolone razziale si sciolgono e forgiano una nuova cosa, la razza americana, la, che ha conquistato il mondo. E a Londra è diverso, c'è questa cultura multietnica in cui ognuno può mantenere assolutamente la propria origine, la propria identità, e poi però accetta o deve accettare dei valori condivisi, comuni, e quindi non deve nascere l'uomo britannico, anche perché è impossibile. Continua il suo rimando alle differenze tra le grandi città americane come New York e la capitale britannica, a tutto vantaggio di quest'ultima, anche per il suo rispetto nei confronti delle diverse etnie che la abitano. Londra è la città più multietnica della Terra. Mentre in America Arnold Schwarzenegger, nato in Austria, è diventato non solo un attore di Hollywood, ma governatore della California due volte e forse, secondo me, senatore, e diventerebbe presidente se non ci fosse una legge che impedisce di diventare presidente se non sei nato negli Stati Uniti, anche se sei cittadino americano, ma ha un accento che sembra un film comico, perché parla proprio come noi Pataten von Strumtruppen, così parla come un emigrato austriaco, e così era anche Harry Kissinger, per dire di un altro. In Inghilterra sarebbe impossibile un uomo britannico senza l'accento, anche perché loro dall'accento, mentre negli Stati Uniti ognuno può avere l'accento che vuole, dall'accento capiscono tutto, ti squadrano, sanno di che classe sociale sei, di che, da quale paese, da quale regione della Gran Bretagna provieni, che scuole hai fatto. Io dico che quelli bravi sanno anche cosa tu stai facendo ieri pomeriggio verso 3:15, a seconda dell'accento che parli, e quindi è impossibile. Forget it, come si dice, dimentica di poter diventare uomo britannico, rimani quello che sei, e però fai parte della realtà generale della, più che della Gran Bretagna, della Londra, della città. E subito nella mia testa mi vedo il signor Higgins, glottologo britannico, che cerca di trasformare la fioraia Eliza Doolittle, la bellissima Audrey Hepburn di My Fair Lady, in una nobildonna attraverso un corso accelerato di fonetica. Che caspita è venuta a fa? Tu continua con le vocali. Ah, le sa, c'è le vocali, le sapeva prima di venire. Allora se le sai, dille. Ehi, Basta! A, E, I, O, U. E che so di te, I, A, U. L'uvaga discende da giorni e giorni, e ma non te la dico più! Give me a London girl every time I've got to find one I've made up my mind. Give me a London girl. Enrico Franceschini ha una sua teoria. Pur non aspirando, ci tiene a sottolineare lui, ad avere teorie particolari, la sua teoria è che la globalizzazione ha fatto crollare le frontiere, i muri tra le nazioni, e ha eretto al loro posto grandi città che hanno una grande importanza. Quindi New York, Parigi, Roma, Londra certamente, ma anche Shanghai, Rio de Janeiro e le città del futuro, magari in Africa come il Cairo, diventano importantissime. E chi vive là si sente di appartenere a una specie speciale in quanto abitante di quelle date città. I newyorkesi, come dice Frank Sinatra, if you make it here, you'll make it anywhere. Se ce la fai qui, ce la farai dappertutto, perché tu, caro mio, non sei americano, sei newyorkese, quindi hai due cose così, come si suol dire, sei una persona speciale, se sei sopravvissuto qua. E questo vale anche per Londra, che ha questa dimensione. Nel libro racconto un aneddoto probabilmente apocrifo, inventato, ma che dà il senso di che cos'è questa storia. Seconda guerra mondiale, bombe naziste che cadono su Londra e Parlamento deserto. Winston Churchill, il primo ministro, si aggira per i corridoi con le mani dietro la schiena e vede la bottega del barbiere del Parlamento con scritto Open for Business, aperto. Rimane quasi commosso, va dentro dal barbiere e dice: io la voglio ringraziare, lei è un vero cittadino britannico, un esempio del nostro orgoglio patrio, e vorrei stringere la mano, la prego, mi dica il suo nome. E quello risponde: Gennarino Esposito, signor primo ministro, perché era un immigrato napoletano. Ma se anche questa storia vera o inventata, ci dice che anche l'immigrato napoletano era diventato un londinese e orgoglioso di esserlo. Per questo sotto le bombe lui teneva il suo negozietto aperto, orgoglioso di esserlo. Non poteva mancare l'aneddoto con l'italiano. Del resto, quanti sono gli italiani che si incontrano per le strade di Londra? A volte si camuffano, ma quasi sempre si riconoscono. Ora, adesso abbiamo parlato dell'immigrato napoletano, allora fra le tante tribù, naturalmente c'è anche la tribù degli italiani a cui dedico un capitolo di affettuosa ironia, perché anch'io ne faccio parte, dicendo per esempio che gli italiani di Londra si dividono fondamentalmente in due specie. Gli anglomani, i quali vogliono disperatamente diventare inglesi, capiscono la superiorità di questo popolo rispetto a noi, popolo di poveri maccheroni, e quindi vogliono. E cosa fanno? Non possono prendere l'accento, perché abbiamo spiegato che è impossibile acquisire l'accento inglese, ma allora innanzitutto, anche se l'abito non fa il monaco, comunque cominciano a vestirsi all'inglese, solo gessato grigio, cravatte regimental, scarpe church, impermeabile Burberry, vanno solo in giro così. Poi una cosa che possono assumere, o almeno provare ad assumere, è il carattere degli inglesi. Quindi assumono un'aria di supremo distacco dalla vita. Niente li turba, né nel bello né nel brutto. Loro hanno la tipica famosa flemma britannica. Se non che quando qualcuno gli ruba un parcheggio con la macchina, o un cameriere gli versa addosso un po' di brodo bollente, esplodono in una serie di bestemmie e di imprecazioni in italiano, e poi si guardano intorno perché si vergognano, è caduta la maschera, non sono inglesi. Chissà quale sarà la seconda specie. Bill strikes another night. Your eyes are heavy and your limbs all ache. You've bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing 'cause the meat is dead. You've moved away. Told your folks you're gonna stay away. Bright lights, Soho. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Londra con Enrico Franceschini. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Enrico Franceschini mi sta portando in giro per le strade di Londra, cercando di farmi vedere i lati inaspettati di questa città, che tutti conoscono in un modo o in un altro. Mi ha anche fatto una radiografia precisa della tribù italiana che vive lì e che si divide in due categorie. Gli anglomani, quelli che tentano invano di diventare inglesi, e poi c'è l'altra specie, quella che lui chiama Italo Trash, Italo Spazzatura. Sono italiani che vivono a Chelsea e South Kensington, mi spiega, i quartieri più chic di Londra. Di solito il marito è un banchiere, di solito la moglie non lavora e si dedica alla beneficenza e allo shopping, oltre che ad andare in palestra. Hanno case magnifiche, vestono magnificamente, ci sanno fare, sanno vivere, insomma. La spazzatura allora dove sta, gli chiedo? Sta che quando gli inglesi li guardano, li trovano comici, perché questi vivono lì esattamente come se fossero ancora in Italia, in una sorta di ghetto dorato. Naturalmente ci sono certe volte che Londra sembra una città italiana, perché a Pasqua e in estate arrivano milioni di turisti italiani, ecco, che riempiono le strade. Si fanno, sembra che ci siano solo loro, anche perché noi italiani, a differenza degli altri turisti, parliamo a voce molto alta, quindi si sente quello che diciamo, e siamo attirati da Londra perché è esotica, è diversa, quindi perché si guida dalla parte sbagliata della strada, gli autobus hanno due piani, i taxi sono neri panciuti, però nello stesso tempo è familiare, perché l'abbiamo già vista, anzi crediamo di conoscerla benissimo. Poi si parla una lingua che noi pensiamo di sapere alla perfezione, perché chi è che non sa un po' di inglese? Purtroppo poi quando arrivano capiscono che non capiscono niente e dicono: ma come cavolo parlano questi qui? A meno che a parlare con loro non sia uno straniero, perché gli stranieri, quando sono in Inghilterra o all'estero, tutte queste razze della terra parlano tra di loro nella vera lingua internazionale della terra, che non è l'inglese come qualcuno crede, bensì è quella che il principe Carlo d'Inghilterra con una geniale battuta, ha definito il broken English l'inglese sgrammaticato, perché in questa lingua più povera, in cui invece che dire zio dici il fratello di mio padre, perché è più semplice, in cui usi pochi verbi, così, però, e in cui hai un accento patetico, però tutti gli stranieri tra di loro si capiscono, e quindi un brasiliano e un egiziano comunicano perfettamente in broken English, e anche un italiano, se incontra magari un indiano, riesce a dire: ah, ma guarda, vedi, l'inglese lo so e riesco a parlare. Ecco, chi? Si faccia avanti qualcuno. Il nostro grande Alberto Sordi ci ha dato lezioni di americano certamente, ma non dimentichiamoci il suo fumo di Londra e la descrizione dell'italiano medio, che sembra tanto quella che mi sta facendo anche Enrico. Mettetevi vicino a quello con la bombetta, altrimenti non ci credono che siamo a Londra. Pasqua, non vado. Ma che foto? Vicino a quello con la bombetta, davanti. Scusa, ministro, un momentino. Bene. Italiani? Sì, signore, oh, italiani. Italiani. Del sud? Adesso tu sei signore. Bambino. Pronti? No? Buono? È buono. E non vi fate conoscere da tutti per quelli che siamo. Purtroppo poi quando arrivano capiscono che non capiscono niente e dicono: ma come cavolo parlano questi qui? A meno che a parlare con loro non sia uno straniero, perché gli stranieri, quando sono in Inghilterra o all'estero, tutte queste razze della Terra parlano tra di loro nella vera lingua internazionale della Terra, che non è l'inglese, come qualcuno crede, bensì è quella che il principe Carlo d'Inghilterra, con una geniale battuta, ha definito il broken English, l'inglese sgrammaticato, perché in questa lingua più povera, in cui invece che dire zio dici il fratello di mio padre, perché è più semplice, in cui usi pochi verbi, così, però, e in cui hai un accento patetico, però tutti gli stranieri tra di loro si capiscono, e quindi un brasiliano e un egiziano comunicano perfettamente in broken English, e anche un italiano, se incontra magari un indiano, riesce a dire: ah, ma guarda, vedi, l'inglese lo so e riesco a parlare. We train to fight, we walk in the hand of one. Let's do it, let's break the law. We walk in the hand of one. Londra con Enrico Franceschini. È il momento di avere qualche istruzione per l'uso. E poi il libro racconta un po' come è fatta anche la Londra di oggi. A questo proposito, così anticipando un po' le cose che ci sono scritte, diciamo così, posso provare a darvi qualche istruzione per l'uso. La prima è che Londra ha un clima meno brutto di come lo si dipinge in Italia. È vero che ha fondamentalmente solo due stagioni, l'autunno e la primavera. Non ha l'inverno, perché con un giaccone si fa l'inverno, tranne rari, rarissimi casi. Questo è stato un inverno più freddo in tutto il mondo, ma di solito un impermeabile, un giaccone leggero, insomma, si riesce, una sciarpa, si fa l'inverno a Londra. Non ha l'estate, perché più di 22-23 gradi, tranne giornate eccezionali, non ci sono mai. Però non ha tutte le cose che ci aspettiamo. Non ha la nebbia. Non c'è più fumo di Londra, niente, proprio nulla del genere. Quando chiusero le ciminiere, portarono via le fabbriche, finì, non c'è stata più la nebbia. Piove, sì, è vero, questo piove, ma molto meno di quello che ci si aspetta, perché più che piovere viene giù il drizzle, che è una parolina che dovete imparare. Drizzle vuol dire pioggerellina fine. Come quella che si darebbe, diciamo, le pompe danno ai prati per bagnarli un pochettino, così, che è quasi morbida. Infatti pochissima gente usa l'ombrello, molto meno che in Italia, perché questa pioggia non dà fastidio. La pioggia non dà mai fastidio. Verrebbe da pensare che Jim Morrison fosse a Londra quando ha scritto: qualcuno dice che la pioggia è brutta, ma non sa che ti permette di camminare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. Dico solo in generale che, per esempio, tre posti da vedere, un po' meno soliti, un po' più insoliti. Uno è l'East End, dove stanno costruendo il villaggio olimpico e tutti gli stadi per le Olimpiadi del 2012. e che quindi cambierà un po', ma è molto grande, questa è solo una parte dell'East End, c'è questo, ma l'East End è un po' quello che a New York è il Greenwich Village, o meglio ancora l'East Village di Manhattan, quindi è il quartiere più vivace, dove ci sono le gallerie d'arte più anticonformiste, dove ci sono le discoteche più così hip, come si dice, una volta si diceva hot, un po' queste cose molto hot, poi abbiamo imparato a dire cool, molto cool, quindi è molto forte questa cosa, ma la cosa veramente come si deve dire hip, quindi è una cosa d'avanguardia, una cosa innovativa, una cosa rivoluzionaria, un po' ribelle, e sono queste discoteche qui, ci sono dei bar e dei ristoranti meravigliosi sia etnici che all'inglese, che pub diciamo così, ci sono anche degli alberghi molto hip, ripetete insieme a me, ecco, non hippie purrà, quella è un'altra cosa, e quindi è un quartiere da visitare, l'East End. Ecco, è anche un po' più tosto del resto della città, però assolutamente, andare a Brick Lane, che ha dato il nome anche a un romanzo, a mangiare la cucina bengalese e poi a farsi un giro in questo quartiere dove adesso stanno arrivando anche un sacco di gente, per esempio della City, che non è distante e abitano nell'East End. Un altro posto che può essere interessante per esempio vedere è Clerkenwell Road, adesso lo ripeto perché per radio poi le parole dici cos'è che ha detto lo diciamo insieme, Clerkenwell Road, non è difficile, questa strada è la strada della Little Italy, perché anche Londra ha una Little Italy dove arrivarono i primi immigrati, ed è un quartiere anche questo affascinante, non solo perché c'è la grande chiesa italiana, i primi negozietti con le scritte in italiano di alimentario che aiutano gli immigrati sono rimasti ad ambientarsi, ma perché anche lì ci sono specialmente intorno allo Smithfield Market, che è il grande mercato della carne storico e degli alimentari di Londra, ci sono tanti posti carini, ristoranti, trattorie, pub, locali notturni, discoteche, posti un po' diversi da quelli classici dei turisti. Walking down the sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing the simple tune upon his flute. Toot, toot, toot, toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Londra con Enrico Franceschini. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono a Londra con Enrico Franceschini. Pur conoscendo questa città come molti di voi, immagino, in questa nuova visita devo dire che ho scoperto molte cose, sia sui luoghi da non perdere, sia sugli inglesi e sugli italiani che vivono là. Mi sono fatta portare persino a Little Italy, io che non ci sarei andata per niente al mondo, e mi sorprendo di esserne rimasta affascinata. Ci siamo lasciati proprio nei pressi dello Smithfield Market, che Enrico mi racconta essere un luogo storico. Per esempio, proprio vicino a questo Smithfield Market ci sono gli unici pub della città che aprono alle 7 del mattino. Perché? Perché i facchini del mercato arrivano alle 3 di notte, alle 2 di notte, alle 7 sono già 5 ore che lavorano a caricare e scaricare, hanno una fame da lupo e vogliono anche bere, e a quel punto i pub aprono e li servono. Ecco, che succede solo lì. E lì c'è anche la targa, perché vicino a questa piazza c'è una targa che ricorda che il punto in cui fu squartato, non un bue, bensì Braveheart, il personaggio storico veramente esistito del film di Mel Gibson, fu portato lì e davanti alla folla, perché lì avvenivano le esecuzioni. Come ha detto all'inizio, sono 3 i posti da visitare. Ecco il terzo. Il terzo posto che vi consiglio di andare a vedere, in inglese c'è un detto che dice everything goes in 3, cioè tutte le cose vanno per 3. In effetti, che sono i tre moschettieri, i tre porcellini, le tre destinazioni che Enrico Franceschini, qui in questo libro Londra-Babilonia, vi consiglia. La terza è Primrose Hill, la collina delle primule, ribattezzata dai media inglesi la collina della promiscuità, perché era abitata da molti VIP, dal cantante Amy Winehouse, dall'attore Jude Law, dallo scrittore Martin Amis, modelle, gente così, e quindi a volte si diceva che insomma c'era una certa promiscuità sessuale intorno alle loro case, ai loro party, alle loro feste. Però al di là di questo, è un quartiere nella parte nord di Londra, un po' più a nord di Regent's Park, molto carino, anche questo, con bei pub, bei ristoranti, belle stradine, non frequentato dai turisti, non se ne incontrano quasi, e con una caratteristica particolare, a parte i pub, lì c'è anche il mio pub preferito, però non dico il nome, se no poi ci ritroviamo tutti, tanti pub sono due o tre, andate lì, lo trovate. Una caratteristica particolare è che c'è un parchetto piccolino che si chiama appunto Primrose Hill Park, che ha una collina. Questa collina è la collina più alta di Londra, e sopra questa collina c'è un osservatorio, e da lì si vede tutta la città. È l'unico posto da cui si vede Londra fino al fiume, quindi se c'è una bella giornata di sole è il giorno giusto per andarci. Quindi buona Londra. Mi sembra di scoprire una città nuova nelle sue parole. Io che a Londra ci vado almeno una volta all'anno. E anche se nel suo Buona Londra si intuisce che per lui il viaggio possa considerarsi finito, sento invece che a me manca ancora qualcosa. Voglio avere da Franceschini una nuova sorpresa, visto che fino ad ora mi ha dato una visione di Londra così inaspettata. Cosa c'è di imperdibile, oltre ai luoghi? Una cosa da non perdere, secondo me, una volta che sei lì, sono due in realtà. Una sarebbe, se non addirittura tre, ma comunque la prima è: andate a vedere un musical. Andate a vedere un musical, se voi vi mettete in coda a Leicester Square, che si scrive Leicester Square, ma gli inglesi non si sa perché pronunciano Leicester Square, c'è una gabbiotta dove vende i biglietti della sera stessa a metà prezzo. Non sai quale musical ti capita, ma sono belli tutti. Che si tratti di Mamma Mia, del Re Leone, del Fantasma del Palcoscenico, di quello che vi capita, sono straordinariamente belli, alcuni commoventi, alcuni divertenti, e è una tradizione anglosassone, inglese e americana, molto divertente, fatta in una maniera di grandissima classe, va vista. In alternativa a quella, andate a vedere un concerto, un prom night, in concerti che si fanno soprattutto d'estate, alla Royal Albert Hall, in cui si vedrà che i tedeschi, no, ecco perché, in cui si vedrà che gli inglesi non sono come li immaginiamo, freddi, altezzosi e riservati, perché vengono con le bandierine patriottiche, cantano partecipando alla musica, sembrano ubriachi, perché lo sono davvero, perché anche a teatro, questo è un posto elegantissimo, ma nell'intervallo vanno a bersi della gran birra, e si vedrà che l'immagine che abbiamo da loro è ricavata più che altro dalla famiglia reale britannica di Elisabetta e dagli Windsor, che non sono inglesi, sono tedeschi, e quindi per quello sono fatti un po' così, un po' più seriosi. Gli inglesi sono dei gran allegroni. Musical, fatto. Concerto alla Royal Albert Hall, fatto. Quello che manca è certamente quest'ultimo spunto, che annoto subito nel mio taccuino per la prossima trasferta londinese. E l'ultima cosa è che se vi capita di essere a Londra a metà di giugno, non perdete l'occasione di andare a vedere un'altra grandissima tradizione, che è Wimbledon. Ora, di Wimbledon si dice sempre che al torneo di tennis di Wimbledon non si trovano i biglietti, ma non è del tutto vero, perché se uno ci va nel pomeriggio dopo le due, coloro che hanno comprato, hanno i biglietti che hanno comprato magari un anno prima, e però non vogliono stare lì tutto il giorno, anche alle 4, diciamo, che hanno visto i primi la mattina e il primo pomeriggio e vogliono andare via, possono rivendere i loro biglietti, c'è una biglietteria apposita, e allora uno fa la coda lì e trova un prezzo ragionevole Ma non importa vedere le grandi partite o le semifinali, Wimbledon è bellissimo, l'impianto, il posto, la quantità di caffè e di bar che ci sono dove si mangiano le cose classiche di Wimbledon, cioè le fragole con la panna, e anche se vi vedete dei ragazzini che giocano nei campetti, insomma, è una cosa che fa veramente affascinare. È vero, fragole e Pimps per 2 settimane. Una bevanda a base di gin, il Pimps appunto, e 27.000 kg di fragole. Ecco il pranzo preferito dei londinesi che seguono sul campo il torneo di Wimbledon. La tradizione dura praticamente da quando è nato il torneo. La prossima volta non mancherò. E voi? Perché se Londra chiama, non resta che rispondere. Ora Enrico Franceschini è in libreria con Londra Babilonia, edito dalla Terza. Meltdown expected, the wheat is worth it. Engine stop on it.